Allora, ci siamo? Dunque, io sono quello di prima, Mumiguno. Con me ci sono Fabio Tricomi, Camilla Serpieri e Claudia Finetti, che hanno fatto un lavoro musicale su due racconti tratti dall'ultimo libro di Mumig, che è un libro per bambini dagli 8 ai 108 anni, che si chiama Canta la Mappa, è uscito da poco. E sono due racconti su cui sono stati fatti due lavori musicali molto diversi, con momenti che troverete anche spiazzanti, molto probabilmente, perché vi riporteranno ad alcune memorie di ribellione infantili. Per fortuna ci sono i Canta la Mappa. Il Monte Rubio bello è nelle Alpi Pennine, a nord di Vercelli, in Piemonte. È un nome molto bello, Monte Rubello, vuol dire Monte dei Ribelli. I ribelli che hanno dato il nome al monte sono proprio Dolcino e Margherita. Robin Hood, lo conoscete tutti. Di Robin Hood ne abbiamo avuti tanti anche in Italia, ma sono meno famosi, perché non ci hanno fatto i film a cartoni animati. Uno che ruba i ricchi per dare ai poveri può andar bene se lo fa lontano, nella foresta di Sherwood, che in fondo chissà dov'è, ma se lo fa poco fuori Vercelli, allora non va più tanto bene, perché la sua storia è appena dietro l'angolo, parla di noi, e chi la sente potrebbe mettersi in testa certi ghiribizzi, potrebbe prendersi il morbino di Dolcino. Come? Cos'è il morbino di Dolcino? Il morbino di Dolcino è una specie di febbre che dà una gran voglia di combattere le prepotenze. Per me è una malattia fantastica e sarebbe bello se l'avessimo tutti, ma per i prepotenti è la malattia più pericolosa, perché se l'avessimo tutti, i prepotenti, che fine farebbero? Si unì a loro un gran numero di persone, uomini e donne. quando tante persone vivono insieme e fanno le cose insieme, si dice che sono una comunità. Ecco, intorno a Dolcine e Margherita si formò una comunità e tutte quelle persone furono chiamate i comunardi. Sempre più uomini e donne venivano a sapere della credenza di Dolcine e Margherita. Ce l'abbiamo in casa tutti una credenza, cosa c'è dentro? Piatti, bicchieri, la roba da mangiare che non va in frigo. Nella credenza dei comunardi si metteva il cibo per tutti, perché tutti gli esseri umani devono essere liberi. E come si fa a essere liberi se non si è liberi dalla fame? Qui tutto è di tutti, diceva sempre Margherita. E come la riempivano? La credenza, ve l'ho detto prima, rubavano i ricchi per dare ai poveri. I signoroni di quelle terre si arrabbiarono molto e mandarono contro i comunardi due tribù di pessimi elementi armati fino ai denti, i biechi neri e i bulli crociati. Ci furono diverse battaglie con morti e feriti. Dolcine e Margherita videro che da quelle parti non potevano resistere e decisero di spostare la comunità in un altro posto. Seguirono la strada che fa il sole quando tramonta e arrivarono in Valsesia. I contadini li accolsero con grandi feste perché ormai erano famosi. Si sapeva in tutte le valli che Dolcine e Margherita erano persone in gamba che insegnavano ai poveri a non farsi mettere i piedi in testa. Anche i valsesiani erano gente così, gente che si ribellava alle prepotenze. In quelle zone avevano quasi tutti il morbillo. Ma a Vercelli c'era un vescovo cattivo, Raniero degli Avogadro. Come? No, non avocado, l'avocado è un frutto che viene dal Messico. A quei tempi il Piemonte non era arrivato perché in Messico non c'era mai andato nessun piemontese. Il cognome del cattivo era Avogadro. Raniero decise che lì in Valsesia Dolcine e Margherita non dovevano starci. Radunò tutti i biechi neri e i bulli crociati che riuscì a chiamare e diede l'ordine di spazzare via i comunardi. Ci furono tante battaglie, i comunardi resistevano sul Monte Rubello e sconfissero i nemici molte volte. Tutto il mondo che odia la libertà e l'uguaglianza si radunò in Valsesia per combattere chi aveva osato sfidare i potenti. I comunardi fecero tutto quel che potevano, ma alla fine Dolcine e Margherita furono catturati. Era la seconda domenica di settembre. Serenità. crudeltà davanti a tante persone perché servisse da lezione. Tenete giù la testa, non vi azzardate a ribellarvi. Margherita fu uccisa per prima per fare soffrire Dolcino e per offendere il loro amore. Ma non finisce mica qui. Da allora, ogni volta che sulle montagne qualcuno combatte i soprusi e le prepotenze, saltano fuori i nomi di Dolcino e Margherita. E ogni anno, la seconda domenica di settembre, chi vuole bene a Dolcino e Margherita sale sul Monte Rubello per ricordarli di fronte a quel cippo. Raniero degli Avogadro, invece, non se lo ricorda più nessuno. Insomma, il film a cartoni animati non l'hanno fatto, ma questa storia vive ancora. E dobbiamo dire grazie a Tavo, l'amico dei Canta la Mappa, che ha dedicato la vita a ricostruire e raccontare la storia di Dolcino. Oggi Tavo non c'è più, ma ogni anno, la seconda domenica di settembre, sul Monte Rubello, è come se ci fosse a Tavo Murat 1932-2009. Si staglia contro il cielo e ha perfino il libro di vetta. quella specie di quadernone che sta dentro una cassetta di latta, così non si bagna quando piove. Chi arriva in cima lo tira fuori e scrive due frasi per dire che è contento, poi firma con nome e cognome e aggiunge la data. Che bello quassù, Mario, 18 luglio 2010. Sono salito di corsa e non ho nemmeno il fiatone, Filippo, 2 settembre 2013. Saliti qui nel nostro primo anniversario, Jumfrey Loves Giulia, 3 ottobre 2014. Ogni tanto a Monte Scrocchi e Zeppi ci salgo anch'io. A forza di vederlo mentre mi lavo le mani o mi faccio la barba, finisce che mi infilo gli scarponi e parto. Scrocchi e Zeppi non è alto, sono solo 498 metri sul livello del mare. Sì, lo so che sta sopra un lago, ma si dice lo stesso sul livello del mare. Non è alto, dicevo, ma è una bella camminata. Dal porticciolo si sale in un'ora e si gode di una bella vista. La gente prende il traghetto, viene sull'isola, fa una bella scappata e poi un picnic sulla vetta. Alcuni però sono maleducati e ci sono stati problemi. Soprattutto quelli di Fessacchiopoli lasciavano spesso i rifiuti per terra, così uno saliva e trovava tutto sporco. Sulla vetta c'era un cestino della spazzatura e ogni due giorni il netturbino Angelo saliva lassù per vuotarlo. Un cestino si riempie già dopo due o tre picnic e quando era pieno i fessacchiopolesi non si portavano giù le cartacce e la plastica come sarebbe stato giusto, ma le gettavano dove capitava, sulla vetta o lungo il cammino. Stanco della situazione, un giorno il comune ha messo un grande cartello con scritto no picnic. Quello è stato un grosso sbaglio. Prima di tutto perché non puoi impedire a qualcuno di fare uno spuntino dopo una camminata di due ore. E poi perché non c'era nessuno che potesse controllare e fare le multe, quindi serviva a poco. È stato proprio il netturbino Angelo a spiegare la faccenda a quelli del comune. Non è coi divieti e le multe che la gente diventa più educata, ha detto. Perché se proibisci una cosa a qualcuno, gli viene ancora più voglia di farla. Invece, bisogna aiutare i fessacchiopolesi a capire che con più rispetto per gli altri si vive meglio. Ad Angelo è venuta un'idea, l'ha proposta e il comune l'ha trovata geniale. Hanno tolto il cartello e poi hanno tolto anche il cestino. Adesso, se quelli che lavorano al porticciolo e sul traghetto ti vedono che vieni giù dal monte senza il tuo sacchetto di spazzatura, ti danno certe occhiatacce, occhiatacce di quelle che te le ricordi per un pezzo. Invece, se vedono che sei stato rispettoso e hai raccolto i tuoi rifiuti, ti sorridono, si complimentano e si mettono a chiacchierare. Sembra poco, eppure funziona, perché Monte Scrocchi e Zeppi è di nuovo pulito e non ci trovi nemmeno una cartina di chewing gum. Ora potrai capire la mia sorpresa quando, mentre sfogliamo il librone dei viaggi dei Cantalamappa, è apparsa la copertina di un libro intitolato No Picnic on Mount Kenya. È successo proprio ieri. Sul monte Kenya. Vuoi vedere che su quella montagna hanno avuto lo stesso problema? Il loro comune ha fatto lo stesso sbaglio del nostro. Il monte Kenya è in Africa e non è mica una collina come Monte Scrocchiazetti, è altissimo, supera i 5.000 metri e sta proprio sull'equatore. Chi fa la faticaccia di salire là sopra dovrà pur mettere qualcosa sotto i denti. Il titolo del libro era in inglese, ma l'autore aveva un nome italiano, Felice Benuzzi. Nella pagina di fronte ecco una foto dei giovani Guido e Adele. Erano in Africa. Si capiva subito che era l'Africa. Ci sono foto che appena le vedi dici Africa. Non so perché. Saranno quel cielo alto alto, la terra rossa rossa, una certa espressione sulle facce. Ho capito che era l'Africa prima ancora di leggere la scritta. Ieri, Kenya, 10 febbraio 1973. Sullo sfondo si vedeva una montagna. Sicuramente era il Monte Kenya. Ho chiesto a Guido di quel libro e della foto e lui, ma come? Non hai mai sentito parlare della fuga sul Kenya? La fuga di chi? Ho chiesto io. Ed è allora che mi ha raccontato la storia di Felice, Enzo e Giovanna. A quei tempi in Italia comandavano i Bianchi Neri, la tribù che aveva catturato e ucciso Dolcino e Margherita. Cioè, non proprio gli stessi di quella volta, perché erano passati secoli, ma erano i nipoti, dei nipoti, dei nipoti, dei nipoti. Il loro grande capo si chiamava Benito, detto Mascellone. Si dava un sacco di arie, gonfiava il petto come un tacchino e spraitava, spraitava, dava ordini a tutti e chi non gli obbediva veniva bastonato e buttato in prigione. I Bianchi Neri avevano anche invaso e conquistato pezzi d'Africa e li avevano dichiarati pezzi di Italia. Contro quei popoli si erano comportati come quando davano la caccia ai comunardi in Valsesia. Avevano ucciso tanta povera gente, soprattutto in Libia e in Etiopia, ma invece di vergognarsene ridevano, se ne vantavano, dicevano adesso abbiamo un impero. Dopo la conquista erano andati a lavorare in quelle terre un po' di italiani. Alcuni erano Bianchi Neri, altri erano solo persone che avevano bisogno di un lavoro. Nella città più importante dell'Etiopia, Addis Abeba, vivevano anche Giovanna e Felice. Felice veniva da Trieste e lavorava in un ufficio. Giovanna veniva da Genova ed era un dottore. Tutti e due amavano scalare le montagne. Quando erano in Italia erano saliti su tante vette delle Alpi. Un bel giorno a Roma il gran capo Mascellone si svegliò di buon umore, sentendosi invincibile, e dichiarò guerra a mezzo mondo, anzi a tre quarti di mondo. E quello era un giorno di buon umore. I tre quarti di mondo non rimasero certo con le mani in mano, anzi risposero con fucilate e cannonate, tante, tante cannonate. Tantissime cannonate. Poi l'Italia, per l'Italia, si mise male quasi subito, immediatamente. Prima ancora però si mise male per l'impero dei Bianchi Neri, cioè quei pezzi d'Africa dove vivevano gli italiani e dove lavoravano Giovanni e Felice. Quelle terre furono conquistate quasi subito da uno degli eserciti che Mascellone aveva sfidato, l'esercito britannico. Molti italiani furono catturati e mandati in grandi campi per prigionieri di guerra sparsi in tutta l'Africa. Prova a immaginarti un grande villaggio di baracche, un villaggio con dentro migliaia di uomini giovani e meno giovani, che non possono uscire e ne sanno per quanto tempo dovranno star lì, lontani dalle loro mogli, dai loro figli, dai loro genitori. Fuggire non sarebbe difficile, ma poi dove vai? Intorno c'è il deserto e moriresti di fame e di sete, oppure la giungla e ti sbranerebbero le bestie feroci. Ecco perché ci sono poche guardie armate, non ne servono mica tante. Hai padre, nessuno. Giovane felice finire in un campo così a Nanyuki in Kenya. Una disgrazia, ma anche una fortuna, perché davanti a quel campo c'era il Monte Kenya, un monte tanto importante che dà il nome a tutto il paese. La montagna era bella, i prigionieri la vedevano ogni giorno, maestosa, fatta di roccia scura e ghiacciai bianchi, con tre vette altissime che si chiamano Punta Batian, Punta Nelion e Punta Lenana. Giovanni e Felice si sentirono sfidati, decisero di fuggire dal campo per salire su una di quelle vette. Basta con la prigionia, con la noia di giornate tutte uguali, con la tristezza di quelle baracche, ci voleva un'avventura. Parlarono della loro idea a un terzo compagno, Enzo, toscano, che non aveva mai scalato una montagna, ma fu subito entusiasta. Evadere dal campo non sarebbe stato tanto difficile, ma scalare la montagna sì. Servivano attrezzi, picozze, lamponi e chiodi. Se li costruirono da soli, in segreto, usando rottami di ferro trovati vicino al campo. Servivano vestiti adatti, se li cucirono di nascosto. In una notte di febbraio Felice, Enzo e Juan scapparono dal campo e si misero in marcia, zaino in spalla, verso il Monte Kenya. Non avevano una mappa e nemmeno una bussola, sapevano solo che la montagna era là, oltre la foresta. Per non farsi vedere e non essere catturati, Felice, Enzo e Juan camminarono di notte e dormirono di giorno. La marcia durò diverse notti, camminarono per più di 30 chilometri e corsero tanti pericoli, incontrarono leopardi, rinoceronti, bufali, elefanti. A Enzo venne la febbre, poi venne Juan, ma andarono avanti, finirono il cibo che si erano portati dietro, ma anche con la fame proseguirono, giunti ai piedi della montagna, cominciarono a salire. Quando si sale molto in alto, si può avere il mal di montagna. La testa batte come se fosse il cuore. Lo stomaco sale verso la gola. E le gambe sembrano fatte di gelato, anzi, di semifreddo. E quel che capitò a Felice, mentre saliva la montagna, cominciò a sentire le campane. Quali campane? Gli chiese Giovanni. Io non sento niente, non ci sono mica campanili qui intorno. Infatti le campane suonavano solo nella testa di Felice, che a un certo punto svenne, anche per via della fame. Il giorno dopo Felice stava bene, ma Enzo aveva di nuovo la febbre. Mentre lui riposava nella tenda, Giovanni e Felice si legarono tra loro, da bravi alpinisti, e cominciarono ad arrampicarsi per salire a Punta Batian, la più alta delle tre vette del Kenya. Un po' per lo stomaco vuoto, un po' per la difficoltà, non riuscirono a salire a Punta Batian, ma non si diedero per vinti. Il giorno dopo salirono alla vetta più bassa, Punta Lenana, più bassa, ma è pur sempre 4.985 metri, 10 volte più alta di Monte Scrocchia Zeppi. Su quella vetta Giovanni e Felice si abbracciarono e respirarono liberi. Quassù non ci sono guerre, disse Felice, niente imperi, niente campi di prigionia. I due lasciarono faccia rossa e la vetta una bandiera italiana, un messaggio in bottiglia per far sapere che erano stati lì. Poi scesero all'accampamento e raccontarono tutto a Enzo, che si commosse fino alle lacrime. Infine tutti e tre si dimisero in marcia, sempre a stomaco vuoto, ormai stanchi morti, ma di ottimo umore. Non c'erano posti dove scappare, l'Italia era lontana e ancora in guerra, e così i tre amici tornarono al campo di Nanniuchi, perché dopo un'avventura così si torna più forti e si può sopportare ancora un po' di prigionia in attesa della pace e della libertà. Felice ne approfittò per scrivere un libro dove raccontò l'avventura appena vissuta. Non molto tempo dopo i Bieghi Neri persero la guerra e Mascellone fece una brutta fine. Un bel giorno tutti i prigionieri poterono rientrare in Italia. Felice portò con sé il libro che aveva scritto e riuscì a farlo pubblicare in italiano e in inglese. Grazie a quel libro oggi conosciamo la sua storia. Guido me l'ha potuta raccontare